L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, alla sua attualità politica, economica, ma soprattutto a quella che è anche la cultura, quella che è il rapporto diretto che alla fine c'è tra il cuore dell'Europa, tra il palazzo, tra quindi Bruxelles e poi le mille diramazioni, le mille implicazioni nella nostra quotidianità. Cerchiamo altri punti di vista e cerchiamo di proporveli a nostro modo. Potete interagire con noi attraverso i social network facebook.com/l'altra Europa, la nostra pagina ufficiale, oppure via Twitter, l'account è @FedericoTaddia, l'hashtag è l'altra Europa. Piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Con noi oggi il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, con lui parleremo di Stati Uniti d'Europa. Andremo a vedere cosa sta accadendo in Francia per promuovere il libro e soprattutto le librerie. Parleremo di diritti umani e lo faremo attraverso delle fotografie. Ma oggi si parte con il nostro viaggio settimanale da Cipro. Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζούμε δυστυχώς τις πιο τραγικές στιγμές από το 1974. Γνωρίζετε ότι έχουμε παραλάβει ένα κράτος δυστυχώς υποχρεοκοπία. Αποκορύφωμα. Quella che state ascoltando è la voce di Nikos Anastasiades, il presidente di Cipro. Queste sono le parole di un drammatico discorso alla nazione che ha fatto qualche giorno fa. Il presidente è in partenza, l'avete appena sentito, dal GR verso Bruxelles per andare a stringere su questo piano di salvataggio. Ieri sera fino a tarda ora hanno lavorato, le opzioni sul tavolo sono tante, sono diverse, sono anche contrastanti. La tassa sui prelievi, un prelievo forzoso, per ora l'idea è quella di farla solo sui conti superiori ai 100.000 euro, poi un fondo di solidarietà, banche ristrutturate, blocco dei capitali. Intanto le banche sono ancora chiuse, intanto si alzano le proteste, intanto i cittadini iniziano a fare sentire la propria voce. Ma intanto c'è il panico perché il bancomat non funziona più, il panico perché se vai a acquistare qualcosa con la carta di credito non funziona, anzi con la carta di credito a volte ti viene anche ritirata. C'è paura ad uscire, non c'è voglia di uscire, c'è una sorta di rassegnazione. Per capire quello che è l'umore proprio del qui ed ora, quello che sta accadendo in queste ore tra le strade, nelle case di Cipro, abbiamo con noi Riccardo Urbano, un architetto italiano. Una decina di anni fa, seguendo il progetto Leonardo, è andato a Cipro e lì ha deciso di fermarsi e vivere. Ciao Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti. Quello che leggiamo di Cipro è soprattutto quello che passa attraverso le pagine economiche, lo scalpore per questo prelievo forzato, per questa idea di prelievo forzato che subito ci ha fatto pensare al nostro orticello. Ok, e se accadesse anche da noi? Vorrei fare un passo ulteriore, vorrei andare a capire quello che veramente sta accadendo negli umori, nelle visioni, nelle quotidianità delle persone lì a Cipro. Ma diciamo che l'umore ovviamente è basso, c'è molta tristezza, senso anche di impotenza, perché ovviamente queste decisioni vengono prese ad alte sfere, quindi non c'è anche nulla da fare. Purtroppo c'è anche molta rabbia, perché si sa bene come questo paese funziona, che ha sempre funzionato attraverso servizi finanziari e turismo. E quindi nel momento in cui i servizi finanziari verranno toccati, insomma l'economia di questo paese insomma verrà spazzata via dall'oggi al domani, ecco. Questo è un po' il punto. Poi ovviamente ci sono tantissime persone che lavorano con questi capitali che arrivano dall'estero, questa è la verità, è sempre stato così. Quindi è anche difficile poi capire certe affermazioni di capi di Stato europei, nel quale si dice appunto che il sistema produttivo di Cipro non funziona più e deve essere cambiato. Non sono cose che si cambiano dall'oggi al domani, ecco. Tu di cosa ti occupi? Io sono architetto. E stai lavorando in questo periodo? In questo momento sono part time, sì. Nell'ufficio nel quale ho sempre lavorato. Diciamo che la crisi c'era già, il mio studio si occupa di progetti pubblici, quindi già l'anno scorso lo Stato ha tagliato il 90% dei progetti pubblici, e quindi noi per esempio avevamo due progetti, abbiamo finito i progetti ma non sono stati realizzati. Eccoci qua ancora in diretta con Cipro, con noi Riccardo Urbano, architetto italiano che vive da una decina d'anni a Cipro, appunto. Riccardo, facci vedere qualche segnale di queste ore. Sì, le banche sono chiuse, non ci sono i soldi, non c'è liquidità, quindi c'è la fila davanti ai negozi, come i locali sono deserti. Puoi darci veramente l'immagine viva di com'è Cipro in queste ore? Sì, come hai detto c'è poca gente fuori, i ristoranti sono vuoti, c'è molta incertezza, la gente ovviamente non sa se domani avrà i soldi in banca oppure no, perché questa è la verità, non sa quanti ne avrà. Ci sono davanti ai bancomat, soprattutto davanti ai bancomat della Laiki Bank, che è quella che probabilmente andrà in fallimento e verrà poi scorporata in due banche, c'è la fila costante davanti a tutti i bancomat, sì. Parlo di tipo di 20 persone. Sì, c'è, come ti avevo detto, c'è molta tristezza, tutti parlano di questa crisi e non c'è prospettiva, non si sa bene cosa succederà la prossima settimana, molte persone saranno senza lavoro, non solo quelle che lavorano nelle banche, ma come avevo già anticipato, qua ci sono su una popolazione di 800.000 persone, ci saranno 80.000 persone che vengono dall'ex Unione Sovietica e principalmente sono impegnate nel settore finanziario. Mm-hmm. Quindi questo settore probabilmente verrà cancellato ed è il motore dell'economia di Cipro. Questa è la realtà. Riccardo, so che a inizio d'anno hai fatto la valigia, però la valigia è ancora lì e tu sei ancora lì. Sei pronto a partire? Sarà... E come mai non l'hai ancora fatto? Non l'ho ancora fatto perché comunque sono 12 anni che sono in questo paese e ci sono sempre stato bene. Poi comunque per la mia professione, che è quella dell'architetto, è difficile anche trovare mm-hmm. posti in Europa, perché ci sono tanti paesi in questo momento che sono in difficoltà. Quindi ci sono, immagino, tutti gli architetti italiani, spagnoli, portoghesi e greci. È una situazione abbastanza che vogliono andare in giro e cercare una nuova sistemazione in Europa. Quindi... se si può trovare in Europa, si trova in Europa, altrimenti si va da un'altra parte. Insomma, questo è lo spirito del progetto Leonardo che ti è rimasto dentro. Grazie davvero, Riccardo, in bocca al lupo per questo momento non facile, ma non fatevi prendere dalla rassegnazione, che alla fine è veramente un freno a vedere possibilità, a vedere visioni. Ciao e buon lavoro! Venez à moi, mon cher amour, loin de l'angoisse du monde. Les yeux contemplent le feu, le souffle est là, les cœurs fondent. Ouvrez le livre, encore un pas, et bientôt Dieu vous parle. E se la risposta alla crisi passasse, venisse proprio dalla cultura? Quante volte abbiamo giocato con questo contrasto, economia e cultura? Quante volte abbiamo messo al centro proprio la cultura della nostra Europa? Ci sono delle dichiarazioni che facciamo nostre del ministro della cultura francese Filippetti, che dice: penso che se c'è una risorsa preziosa in Europa è la cultura, e sarebbe una follia non cercare di svilupparla e sostenerla. I paesi che hanno fatto la scelta dell'austerità nella cultura, per esempio la Spagna, si trovano oggi in una pessima situazione. L'eccezione culturale è ancora di attualità e sono convinta che lo Stato debba intervenire per sostenerla. Non è vero che i prodotti culturali sono prodotti come gli altri e le librerie sono l'ossatura della cultura francese. Una dichiarazione che ha fatto proprio lanciando questo piano per difendere le librerie indipendenti, soprattutto contro quello che lei chiama il mercato sleale del web. Il mercato del web ci deve essere, però serve un regolamento. Un fatto importante, un fatto che può essere anche un pilota per quello che accadrà in Europa. Per capire meglio questo piano e per capire anche quelle che sono state le reazioni, abbiamo con noi Anaïs Ginori, corrispondente dalla Francia di Repubblica. Ciao Anaïs. Pronto? Ti sentiamo? Ci sei? Sì. Pronto? Sì, eccoci. Eccoci, ciao, scusa, sentivo male. Sì, eccoci. Proviamo a richiamare, che credo ci sia un problema col collegamento. Appunto, dichiarazioni che sono state fatte in prossimità del Salone del Libro di Parigi, che si sta avvenendo proprio, apre oggi, a pochi giorni anche da quello che è un appuntamento europeo fondamentale, che è la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi a Bologna. Abbiamo parlato di libri anche settimana prossima, proprio per capire quelle che sono le diversità legate all'IVA e legate al mercato dell'ebook. Vediamo se abbiamo ripescato Anaïs Ginori. Anaïs? Eccomi. Eccola lì, sentivamo una strana voce, che ho detto, ma era uno strano loop. Ciao, grazie per essere qua con noi. Sei in Italia o sei in Francia in questo momento? In Francia. Ok. Quindi hai seguito, immagino, da vicino quello che è accaduto in questi giorni. Come mai questa difesa estrema delle librerie e delle librerie indipendenti in particolare? Beh, è una storia molto lunga per la Francia, per i governi francesi, insomma, dagli anni Ottanta hanno difeso in ogni modo il circuito delle librerie indipendenti contro la grande distribuzione, i megastore. Già il governo socialista di Mitterrand, quindi appunto 30 anni fa, fece quella famosa legge Long che metteva un limite agli sconti, no? Il prezzo unico del libro, una legge che esiste tuttora in Francia e che ha garantito finora la sopravvivenza di un numeroso circuito, insomma, di librerie indipendenti. Adesso ovviamente con la crisi anche questa legge sembra poter essere ridiscussa, e comunque non è più sufficiente a scongiurare la chiusura di tante librerie. L'abbiamo visto in questi ultimi mesi, persino a Parigi, in quartieri come Saint-Germain-des-Prés, nel quartiere Latino, che è il quartiere storico delle librerie, chiudono i battenti piccole insegne con proteste che però appunto per il momento non si vedono soluzioni. Adesso il ministro Quali Filippetti proporrà un piano, però teniamo sempre presente che siamo in un periodo di austerity anche a Parigi e i fondi sono pochi. Mm-hmm. Quindi non ti sento molto ottimista. No, sei realista, giustamente. Ma dimmi una cosa. Cerco di dire, insomma, ci sarà un po' di propaganda sicuramente nei prossimi giorni da parte del governo. Si sa però che appunto gli strumenti che ha il governo sono limitati. Avevano parlato della creazione di un fondo di sostegno qualche mese fa, poi hanno già ridiscusso, insomma, questo fondo. La dotazione iniziale era di 20-30 milioni di euro, adesso si parla della metà. Avevano parlato di un ulteriore sgravio fiscale sui libri, adesso dicono che non si può, perché comunque appunto non si può cambiare il bilancio di quest'anno, e insomma, quindi purtroppo appunto i numeri sono questi, e anche la Francia, che destina una cifra enorme alla cultura, perché ricordiamoci che il Ministero della Cultura in Francia ha una dotazione che è 5 volte quella dell'Italia, per esempio, quindi la cultura è difesa e protetta anche, insomma, con sovvenzioni importanti, però purtroppo penso che in questo periodo è molto difficile, anche insomma, se le intenzioni sicuramente ci sono. Certo, credo però che, insomma, che possa essere veramente un progetto, una riforma pilota, in parte quella della difesa estrema delle librerie indipendenti, lo vediamo anche in Italia, comunque sono un patrimonio di scelta, ma in particolare per cercare di regolamentare quello che è il rapporto col web e con la vendita dei libri attraverso i giganti, soprattutto statunitensi, vedi Amazon, perché ci sono privilegi che credo siano veramente da regolamentare, perché c'è qualcosa che non va, il mercato è assolutamente drogato. Anais, tu in questi giorni invece su cosa stai lavorando? Lo sai che mi piace sempre curiosare un po' sulle attività altrui, dove è posta la tua attenzione? Ma guarda, mi sono occupata di un piccolo caso letterario, tra l'altro a proposito dei libri, di un autore che ha fatto un pamphlet che si chiama La Francia Arancia Meccanica, che parla della violenza, dell'aumento della criminalità appunto nella Francia, ed è diventato un piccolo caso, è in testa alle vendite, ed è un po' anche il manifesto dell'estrema destra in Francia, molto, molto citato da Marine Le Pen e dal Front National, quindi molte polemiche per questo libro, però un grande successo, anche un po' inquietante se vogliamo, perché è un libro molto forte, molto duro, anche con accenti, diciamo, xenofobi per insomma, sul legame presunto tra immigrazione e criminalità. Mm-hmm. Insomma, un campanello d'allarme importante. Sì. Grazie davvero, Anais, come sempre, per la tua lettura sintetica ma puntuale di quella che è la realtà francese. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Bentornati all'Altra Europa, siamo sempre in diretta dagli studi di Radio 24, facebook.com/l'altraeuropa, se volete trovare i nostri link, oppure via Twitter, l'account è Federico Taddia. Le voci che avete ascoltato in riapertura sono voci che arrivano dall'Ungheria, sono le voci delle proteste studentesche, e gli studenti ungheresi hanno fatto loro questa canzone di Michael Jackson per alzare la voce, perché c'è stato un golpe bianco, il gol bianco di Orban, che sta preoccupando il cuore dell'Europa. Modifiche liberticide alla Costituzione, limitazioni per il potere giudiziario, alla libertà di stampa, diritti riconosciuti solo alle coppie eterosessuali, a quelle sposate, il Partito Comunista ha dichiarato fuori legge. Sarà reato dormire per strada, e soprattutto una delle cose che più ha fatto arrabbiare gli studenti. Gli studenti che si laureeranno con gli aiuti di Stato non potranno lasciare il paese per 10 anni. Tante decisioni che hanno fatto protestare il commissario Barroso. Sono arrivate le critiche del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Però l'Ungheria va avanti in questa strada intrapresa contro l'Europa, contro la libertà. E in tutto questo, per raccontare la voce dei giovani, abbiamo trovato un bellissimo reportage di una fotografa, definirla italiana forse è limitativo, lei si definisce una figlia di Schengen, avendo girato mezza Europa, parlando 5 o 6 lingue, essendo una nomade. Diamo il benvenuto a Eloisa Dorsi. Ciao Eloisa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Abbiamo trovato un tuo reportage molto, molto bello, fatto in collaborazione con Caffè Babel, questo portale sulla cultura europea, caffebabel.it, abbiamo già linkato il sito nelle nostre pagine. Raccontaci che Ungheria, che Budapest, che giovani soprattutto hai raccontato. Guarda, sì, ciao, io sono andata a fare questa cosa con Caffè Babel appunto per questo che sarà il loro nuovo progetto 2013 che si chiama Utopia Underground, che di fatto è un tentativo di raccontare l'Europa che ci circonda, quella reale, magari a volte deludente, però insomma anche un po' quella ideale. Diciamo che insomma Caffè Babel sta cercando un po' di trovare chi ha voglia di rimettersi in gioco nonostante questa crisi devastante che ha schiacciato i giovani di questa Europa. E siamo andati lì appunto a raccontare un po' quello che stava succedendo con gli studenti e di fatto appunto quello che accennavi tu, questa nuova proposta di legge di Orbán che di fatto è passata, che appunto obbliga gli studenti a rimanere in patria il doppio degli anni che hanno studiato. E allora appunto è un po' un modo quasi di, diciamo, di seppellirli nella loro patria, no? Di non lasciarli più andare via, abbastanza controtendenza contro tutto quello che è l'Europa, per cui appunto la mobilità, Schengen, eccetera, eccetera. Tra l'altro un sacco appunto di studenti hanno aderito a questa protesta nonostante loro stessi dicessero non vogliamo andare via a studiare all'estero, ma per principio aderiamo a questa protesta perché ci sembra assurdo il fatto che ci vogliano obbligare a rimanere qui, no? Quasi certo. A scavarci la fossa. Hai usato tante parole che riportano immediatamente al tuo lavoro: schiacciati, nascosti, scavato. E tu sei andata proprio là sotto a cercare i giovani, sei andata nei sottosuoli, sei andata nella metropolitana di Budapest, ma perché è un luogo simbolico, perché il riscatto riparte proprio da lì? Bah, diciamo semplicemente che a livello grafico in realtà è stata un'idea che è venuta fuori un po' per descrivere appunto questo clima di sotterramento, il fatto che gli studenti appunto non possano più andare via da questo posto come se dovessero scavarsi se la fossa, e visto anche che Budapest ha una lunga tradizione sotterranea, chiamiamola, perché dai tunnel della Seconda Guerra Mondiale, passando per le terme, ci sono più di 100 bagni termali appunto per queste sorgenti che ha, piuttosto che questo metro che è stato dichiarato addirittura patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002 e che è la seconda metropolitana più antica d'Europa dopo quella di Londra. Mm-hmm. Quindi insomma una lunga tradizione sotterranea, e quindi era un'idea un po' per descrivere questa situazione. E devo dire che appunto io ho passato un sacco di tempo nel metro, uno perché fa freddissimo a Budapest, diciamo la verità, e quindi ho scoperto un po' questo mondo in cui chiamiamolo divertente il fatto di vedere il confronto tra questi giovani magari con l'iPod, l'iPad o quello che sia, e poi appunto questi personaggi accanto della vecchia guardia, insomma le persone più anziane che vanno ancora vestite con i copricapi alla cosacca piuttosto che le signore con i vestiti da contadino, quindi un grosso contrasto, diciamo, tra una cosa e un'altra. Certo. Subway Budapest, fuga dal nazionalismo nei sotterranei della capitale, caffebabel.it per vedere questo bel lavoro, andate a sfogliare la galleria, i link nelle nostre pagine in Facebook. Elisa, ci prendi una foto, ci prendi una storia che secondo te è particolarmente simbolica del lavoro che hai fatto? Beh, guarda, io ho girato, mi ha accompagnato spesso appunto nel metro, anche perché si capisce poco, una ragazza che ho conosciuto che stava partecipando a questa occupazione nella facoltà di lettere, sì. Questa ragazza si chiama Rebecca, ha 22 anni, sta facendo una tesi sulla letteratura ungherese e italiana, cosa per la quale ha avuto un'occasione. In Italia, tra l'altro, sto facendo una tesi su Luciano Bianciardi, che io amo molto, tra le altre cose, e questa Rebecca mi raccontava di essere una delle poche studentesse che ha potuto denunciare questo nuovo scandalo che è successo, la lista della vergogna. Difatti è venuto fuori che i ragazzi più grandi, quindi quelli del comitato storico studentesco dell'università, schedavano i ragazzi più giovani, quindi quelli del primo anno. Era una specie di database segreto con informazioni su etnia, orientamento politico, sessuale, religioso, aspetto fisico. È stato difficile dimostrarlo, ma nel suo caso è stato insomma abbastanza evidente, perché come mi ha raccontato lei, il primo anno di università aveva un uccellino e parlando con questi ragazzi più grandi, che secondo lei era evidente che fossero di destra, ma insomma mm-hmm. chiacchierando con loro, a un certo punto uno di questi ragazzi più grandi, probabilmente di Jobbik, che sarebbe il partito appunto di estrema destra, adesso la terza forza in Ungheria, che sarebbe il Movimento per Ungheria Migliore, insomma uno di questi ragazzi gli ha chiesto notizie di questo canarino, come si chiamava, E Rebecca ha risposto, si chiama Mussolini, per prenderlo in giro, mi diceva. Sì. Però insomma, su questa lista, su questo database segreto che adesso hanno trovato e che hanno messo in circolazione per far capire agli studenti com'era la situazione, e c'era scritto appunto Rebecca X ha un canarino che si chiama Mussolini, ma sembra essere di tendenze liberali, insomma, da tenere d'occhio. Questo per dire... Per dire, insomma, esatto, come la situazione, quanto sia difficile pensare, respirare. Democrazia, Utopia on the Ground, storie e città per una migliore Europa, il progetto di Caffè Babel. Andate a vedere il bellissimo reportage di Eloisa Dorsi. Ciao Eloisa, grazie, ci ritroveremo sicuramente all'altra Europa per seguire altre fasi del tuo lavoro. Ciao e buon sabato. Grazie a te. Europost-it. Uno stage in Polonia per i nuovi comunicatori. Siete studenti interessati al marketing, alla comunicazione o volete imparare come si sviluppano e lanciano i prodotti sul mercato? C'è uno stage che può fare per voi, per imparare tutte queste cose e stare anche in un ambiente multiculturale e multilingue. È a Wrocław in Polonia e ha la durata minima di 3 mesi. Lo stage è retribuito e si dovrà pagare soltanto una metà dell'affitto in uno studentato. Per fare domanda andate su internship.transenter.com. Who's gonna bail them out? Greece is solving debt crisis, brought the government to the brink of collapse. There's public fury over savage austerity measures erupted in pitch battles with police on the streets about it. There's much to blame for this crisis, deregulation, speculation, the mortgage scams. It started in the late 90s when European nations said, let's get together. Non è solo Grillo, euroscettici d'Europa. Questo è il titolo del convegno, della ricerca che verrà presentata lunedì 25 marzo alle ore 18 presso il Palazzo Clerici a Milano. Uno studio dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, uno studio proprio dedicato a capire, a fotografare quello che sta succedendo in Europa, tutti quei fenomeni di euroscetticismo, ma che poi diventano addirittura anti-europeismo. Per capire il valore di questo lavoro c'è con noi Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Magri. Buongiorno a voi. Euroscettici d'Europa sono tanti? Dove sono? Chi sono? Beh sì, l'obiettivo di questo studio è proprio quello di fotografare una realtà che è in crescita ma che è anche molto diversa da paese a paese. L'Europa ha sempre avuto delle forze politiche tradizionali con orientamenti euroscettici, pensiamo ai conservatori inglesi, pensiamo a Die Linke in Germania o al Fronte Nazionale di Le Pen in Francia. Ma la novità è questo che fotografa lo studio, sono questi partiti nuovi, questi partiti di democrazia liquida o partiti personali che sono nati. E sono nati sia nei paesi vittime dell'austerità, sì, il sud dell'Europa, che nei paesi sostenitori dell'austerità. E c'è una differenza di fondo però. Mentre nei paesi vittime dell'austerità, Grecia, Spagna, Portogallo, Bulgaria, Italia, noi vediamo, l'Italia è un caso particolare, ma vediamo soprattutto delle formazioni di orientamento di sinistra che sono più critiche nei confronti dell'Europa, ma non l'Europa come istituzione, non mettono in discussione l'appartenenza all'Europa, che è anche una funzione protettiva, ma le politiche dell'Europa, la troica, l'austerità, eccetera. Né invece nei paesi sostenitori dell'austerità, la Germania, l'Austria, la Finlandia, l'Olanda, vediamo nascere dei partiti di orientamento di destra dove si arriva a mettere in discussione proprio l'adesione all'Europa, quindi chiaramente in alcuni casi anche anti-europei, miscelati con un po' di anti-islamismo, di xenofobia, ma tendenzialmente sono due fenomeni diversi. Ma è solo la crisi il volano di questo euroscetticismo crescente? Ma è la non è solo la crisi in realtà, perché lo dimostra il fatto che anche nei paesi che la crisi non ce l'hanno, che questi fenomeni nascono, è la crisi e come la crisi è stata gestita. La crisi e il fatto che per risolvere la crisi l'Europa è entrata in una trappola politica, ha centralizzato le politiche dando la sensazione ai vari paesi di essere in alcuni casi commissariati, in altri casi di essere dei pagatori per dei paesi scialacquatori, E questo ha creato un deciso deficit democratico e alimentato un senso di fastidio, di protesta. Mm-hmm. Quindi forse proprio la gestione, o comunque il pensiero dell'Europa fatta così, nel senso non è uno scetticismo contro il concetto d'Europa, è un euroscetticismo contro questa realizzazione del concetto d'Europa. Nei paesi vittime dell'austerità sicuramente sì. Negli altri paesi c'è qualcosa anche di più, ma il punto è che quello che sta avvenendo è che la crisi e la gestione della crisi sta indebolendo i leader dei vari paesi. Noi abbiamo avuto un'infinità di elezioni dove i leader non sono stati rieletti, o se sono stati rieletti hanno perso subito l'appoggio popolare, o se erano partiti nuovi, Monti, non hanno sfondato. Quindi abbiamo questi leader deboli in tutta Europa, che sono i leader poi che siedono ai vertici europei e devono affrontare i problemi e trovare le soluzioni. E le soluzioni questi leader deboli le trovano o lentamente o inadeguate. Pensiamo come abbiamo gestito la crisi greca, pensiamo come stiamo gestendo la crisi di Cipro in questo momento. E quindi da questi vertici escono soluzioni deboli o tardive o inadeguate, e il risultato è che non risolvono i problemi dei paesi, e quindi questo di nuovo alimenta lo scetticismo. Pensiamo alla crisi greca, una crisi che si poteva risolvere 4 anni fa spendendo 100 miliardi di euro. L'abbiamo forse risolta spendendone 380, ma la Grecia nel frattempo è crollata. Ecco, questo è, e perché ciò è avvenuto? Perché la Merkel doveva tener conto degli umori politici nel suo paese, che hanno anche orientamenti anti-europei decisi. E quindi questo è quanto sta avvenendo. Euroscettici d'Europa, non solo Grillo. È Grillo il nostro emblema di questo euroscetticismo? Grillo è sicuramente, anche noi però abbiamo un fenomeno che si registra in altri paesi, ovvero il contagio dello scetticismo anche in partiti non nuovi. La Lega lo è sempre stata, con sfumature diverse, ma le posizioni che ha preso anche Berlusconi in questa campagna elettorale fanno capire come anche i partiti tradizionali, che ovviamente vedono un terreno cedevole attorno a loro, devono tener conto dei nuovi umori e li cavalcano in alcuni casi. E certo, questo non avviene solo in Italia. Grazie davvero, Euroscettici d'Europa, non solo Grillo, lunedì alle ore 18 a Milano presso il Palazzo Clerici. E grazie davvero a Paolo Magri, direttore ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buon lavoro, Magri. Grazie a voi, buona giornata. L'altra Europa, breve storia del futuro degli Stati Uniti d'Europa, è un saggio appena pubblicato da Fazi, scritto da Elido Fazi e Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo. E Pittella è qua con noi. Buongiorno Gianni, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Mi piaceva anche fare questa sorta di contrasto. Abbiamo appena parlato di euroscetticismo, di questo studio anche sull'onda dei dati recenti di Eurobarometro. E poi a contrasto, chi all'Europa ci ha sempre creduto, chi ci crede e chi propone anche direzioni. E qui, insomma, tu sei abbastanza un testimonial di questa vocazione europea. E anche nel libro lo racconti. Cosa sono per te gli Stati Uniti d'Europa e perché proprio gli Stati Uniti d'Europa possono essere la risposta a questo euroscetticismo? Ma perché l'euroscetticismo nasce dalla insoddisfazione per l'Europa come è oggi, non per il disegno di integrazione europea. È l'Europa che non decide, o che decide male, che non piace ai cittadini. È l'Europa dell'austerità, è l'Europa che non riesce a fare la politica estera comune, è l'Europa che combina il pasticcio che ha combinato su Cipro, che è l'Europa poi dei governi, non è l'Europa del Parlamento e dei cittadini. Quello che non piace è l'Europa dei mercati, l'Europa delle grandi forze finanziarie, l'Europa del liberismo sfrenato. Ciò non piace al cittadino, che invece vorrebbe nella gran parte una statualità europea che riesca a dare quelle risposte che oggi mancano: una buona ripresa economica, un buon sviluppo sostenibile, una più forte occupazione, una politica estera comune, una politica di difesa e di sicurezza comune e una nuova stagione dei diritti. Questo è quello che scriviamo nel libro, con un compromesso inedito che lanciamo con Elido Fazi all'attenzione della signora Merkel e anche degli altri governanti e degli altri attori in campo. Ma questa idea di Stati Uniti d'Europa chi spaventa? Ma spaventa tutti coloro i quali vogliono spadroneggiare in assenza della politica e delle istituzioni. Le forze brute della finanza, che sono il vero potere da cui spaventarci, non hanno nessun interesse che vi sia un grande attore sovranazionale, politico, che faccia per esempio la supervisione delle 6.000 banche che ci sono in Europa, che faccia la garanzia sui depositi bancari, che colpisca le grandi rendite finanziarie. Tutto questo non lo vogliono, non vogliono un attore politico, non vogliono un attore politico sovranazionale, coloro i quali pensano ancora di fare la politica estera con i loro piccoli o medio o grandi ministri degli esteri. E ci sono anche componenti, credo, internazionali che temono un'Europa forte che possa inserirsi nel dialogo e nel confronto multilaterale. Ma Gianni, qui voi, scusa, però voi politici non avete qualche responsabilità? Non siete stati voi i primi a cedere, a soccombere all'economia? Beh, certamente c'è una responsabilità della politica, ovviamente anche qui non bisogna fare delle semplificazioni, perché ci sono politici che ci credono. Francamente io sono un innamorato di queste idee, mi batto mattina, pomeriggio e notte per queste idee, scrivo libri, vado dovunque mi chiamano a parlare di Europa. L'altro giorno sono stato nell'euroscettica Londra a sfidare le ire di coloro i quali non vogliono la tassa sulla transazione finanziaria, non vogliono ridurre i bonus ai banchieri. Ho detto a loro: ma scusate, ma possibile mai che potete accettare che c'è una famiglia che non guadagna 1.000 euro, che ci sono un quarto di cittadini che stanno proprio nella povertà assoluta, e poi ci sono banchieri o manager che guadagnano milioni e milioni al mese? Ma questo è il segno più profondo, più vergognoso della iniquità, e questa iniquità io la voglio combattere. Allora non facciamo semplificazioni, non lo dico a te che sei so bene che sai distinguere, ma non facciamo semplificazioni. La politica non è riuscita a tradurre queste idee. Ci sono politici che ci credono, io ci credo sinceramente, come me ce ne sono tantissimi. Dobbiamo fare fronte comune, abbiamo scritto finanche con Fazi ai grillini, abbiamo scritto al presidente dei gruppi della Camera e del Senato per dire: ma quando dite usciamo dall'euro, ma riflettiamoci insieme, volete parlare con noi, vogliamo parlare di questo libro, vogliamo capire, al di là dello slogan, della campagna elettorale, della speculazione, che significherebbe per la famiglia italiana, per i cittadini, uscire dall'euro? Lo dico a Pierluigi Bersani, che si appresta a fare un governo, spero che lo faccia per il bene dell'Italia. L'Europa viene al primo posto. Quando si dice anche negli 8 punti di governo tagliamo i costi della politica, noi al Parlamento europeo lo abbiamo fatto. Prendete lo statuto del deputato europeo e attuatelo, applicatelo nel Parlamento italiano. Non ci vuole assai, lo dico presidente della Camera del Senato Grasso e Boldrini, o viceversa. Quindi insomma può essere, è quello il faro. Gianni, prima di salutarci, 5 idee per un'Europa più giovane. Ho letto di questa iniziativa che avete portato avanti in queste mesi. Testimonianza dell'attività, diciamo, pazzesca che stiamo facendo. Siamo andati con una mia collega maltese, siamo andati in 12 università d'Europa a discutere fianco a fianco con i ragazzi delle università, perché insomma la politica si fa così, parlando, e soprattutto la politica si fa con la capacità di ascolto. E sono venute fuori da queste riunioni con gli studenti in Polonia, in Italia, ovviamente in Spagna, in Portogallo, dovunque siamo stati, sono venute fuori delle idee per rendere più giovane l'Europa, l'Erasmus universale che copra tutte le fasce giovanili, non soltanto gli studenti dai 16 ai 35 anni. È venuta fuori anche l'idea dell'assegno di cittadinanza, è venuta fuori una capacità di partecipazione dei giovani alle attività politiche europee. Sono venute fuori una serie di idee che raccoglieremo in un libro e che affideremo ovviamente al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, e vedremo di fare anche una risoluzione. Dopodiché ho lanciato un'idea, che è quella di fare una raccolta di firme attraverso la petizione popolare prevista dal Trattato di Lisbona su questi temi che riguardano i giovani. e ho detto ai giovani, non è, io vi posso accompagnare insieme agli altri parlamentari che ci credono, ma poi i protagonisti dovete essere voi, noi vi dobbiamo accompagnare, ma voi siete i fatti della vostra vita e la dovete scrivere, la vostra vita, all'insegna dell'Europa, di una nuova Europa, non l'Europa che c'è oggi, ma un'Europa davvero politica. Grazie davvero all'onorevole Gianni Pittella, grazie, vicepresidente del Parlamento europeo, buon lavoro. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao. E questo grazie va a tutta la squadra, in particolare a Margherita Ina e Miriam Lucchetti, che come hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Peter Bescapè alla parte tecnica. Ci trovate su Facebook, su Twitter, sul nostro sito radio24.it. Grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, ci ritroviamo qua sabato prossimo come sempre alle 10. Ciao da Federico Taddia.